Sì, quello che poi è successo a Bari sostanzialmente è che appunto ci sono state cause di questo genere fatte inoltrate, cioè nel 2011 circa 500 insegnanti hanno presentato ricorso contro la violazione della normativa comunitaria di cui stavamo parlando. Credo che in realtà, io sto leggendo in questo momento da Repubblica, si trattasse di insegnanti e anche di personale non docente, anche per quanto riguarda i ricorrenti. La maggior parte dei ricorsi è stata impugnata dall'Avvocatura di Stato, però negli ultimi mesi c'è stato una sorta di pasticcio, dice Repubblica. Proprio l'Avvocatura avrebbe dimenticato di impugnare una decina di sentenze di primo grado stabilite dal Tribunale di Trani favorevole ai ricorrenti. Risultato: quelle sentenze sono passate in giudicato e devono essere attuate. L'ufficio scolastico provinciale di Bari ha preso un mese di tempo per decidere, ora poi è arrivata la soluzione. La soluzione è licenziare gli ultimi docenti e i bidelli presenti in graduatoria. C'è stata prima una circolare dell'ufficio regionale. La circolare del 29 gennaio. Deve avvicinare di almeno 10 centimetri. È del 29 gennaio di quest'anno, dell'ufficio scolastico regionale di Bari, indirizzata all'ufficio scolastico provinciale e per conoscenza anche all'Avvocatura dello Stato, in cui si dice esplicitamente che poiché il MEF appunto... Lo posso leggere questo piccolo brano. Stante il divieto di assumere personale a contratto a tempo indeterminato, superando il contingente autorizzato annualmente dal Ministero dell'Economia e Finanza e del Dipartimento della Funzione Pubblica, si ritiene opportuno distinguere in due casi. Cioè, uno è il caso se il lavoratore è già il lavoratore ricorrente ha già un posto a tempo indeterminato di ruolo, insomma. Allora, in quel caso si tratta solo di aggiornare la decorrenza giuridica della nomina. Se invece non ce l'ha, gli va dato il posto, ma al posto di questo lavoratore. Sì, perché poi è accaduta ovviamente retrocedendo nomine giuridiche e di fatto vanno a questa integrazione vanno a togliere posto ai successivi che sono subentrati in graduatoria, nel ruolo, con contratti a tempo determinato, però a ricaduta sembra che coinvolgerà un centinaio di persone, perché appunto se facciamo il caso un ricorrente ha vinto la causa e gli viene riconosciuto che 4 anni fa doveva entrare di ruolo e quindi viene retrodatata la decorrenza giuridica e la decorrenza economica e quant'altro, accaduta tutti i successivi dovranno vedere riconosciute o non riconosciute appunto le varie fattispecie poi di contratti. La novità, diciamo, è di questi giorni, perché stanno arrivando le lettere di licenziamento, che sono già arrivate a 5 collaboratori scolastici, 2 assistenti tecnici e vari docenti. Si tratta di lavoratori e lavoratrici che proprio quest'anno erano entrate in ruolo, quindi ci immaginiamo, visto che il precariato qui c'è ancora chi lo vive e chi l'ha vissuto per diversi anni, tu stai per 10 anni, 12 anni precario, poi improvvisamente poi ti arriva il ruolo e poi ti arriva la lettera di licenziamento. Insomma, anche sul piano personale è una cosa molto molto pesante, e al di là del fatto che insomma questo apre un capitolo veramente inquietante. No, apre un capitolo terribile obiettivamente, perché sono casi di vero e proprio licenziamento, e se ho capito esattamente, sì, alla fine di tutta quanta questo gioco si andrebbe a riverberare su 20 persone, 20 persone licenziate, perché non è possibile sforare di 20 unità il contingente previsto per l'anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è una cosa veramente incivile e folle. In aggiunta a questo, una cosa che mi veniva in mente, il danno è veramente incalcolabile, perché immagino che le 20 persone, tra queste i docenti che sono stati messi in ruolo, non abbiano pensato a partecipare alle procedure del concorso. Non potevano. Non potevano. Perché essendo in ruolo non avrebbero potuto. No, anche perché questo concorso non permette a chi è dipendente dipendente, a chi è già in ruolo, di partecipare eventualmente per acquisire una seconda abilitazione. È un concorso esclusivamente per persone che non sono già impiegate nello Stato, e quindi veramente è una situazione devastante. Ma la cosa più folle di tutte è appunto il licenziamento. No, la cosa più folle di tutte, ovviamente, con tutta la solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici a cui è toccata questa sorte, e anche nella speranza insomma di costruire delle mobilitazioni su questo, ma la cosa più inquietante poi è il messaggio generale che ne viene fuori, cioè al di là del caso particolare delle 20 persone, cioè un caso generale in cui forse si tratterà anche qui di approfondire l'argomento, ma in cui insomma innanzitutto si passa veramente da una gestione come dire pubblicistica a una privatistica del posto di lavoro, anche per quanto riguarda appunto il posto di lavoro sotto lo Stato, e fomentare la lotta tra poveri e la lotta, come dire, all'ultimo sangue per il posto di lavoro, e poi è, come dire, la giungla, cioè non c'è nessun tipo di, ormai sembra, nessun tipo di diritto del lavoro che tenga, perché fra l'altro poi di questi giorni la specifica che oltretutto non varrebbe per la scuola la direttiva europea per cui dopo 3 anni di precariato ti devono inserire in ruolo. Sì, adesso di questo parleremo a brevissimo, tra qualche minuto, però riflettendoci è vero quello che dicevi tu, cioè è vero che è la giungla ed è veramente un mercato del lavoro folle, però quello che mi colpisce è una considerazione sicuramente di minor momento, però è anche il fatto che è una burocratizzazione folle del mercato del lavoro, contabilistica, cioè tu stai avviando le procedure per il reclutamento di 10.000 insegnanti che vai a cercare tra persone che non sono iscritte in graduatoria di fatto, o solo in parte tra persone che sono iscritte in graduatoria, e contestualmente 20 persone che hanno avuto il ruolo e che poi per un ricorso sarebbero in esubero rispetto a un certo tipo di contingente le licenzi. Cioè questo è veramente un sistema disumano dal punto di vista del diritto del lavoro, e non so, insomma, se vogliamo aggiungere qualcosa, ma mandiamo una breve traccia musicale e poi proseguiamo con questo discorso relativo sempre appunto al diritto, insomma, dell'inserimento sul mercato del lavoro. Caramba por la compasita, me gusta. due vada. Torniamo in voce, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Sì, a margine di quello che stavamo dicendo, l'abbiamo accennato prima, c'è la questione, diciamo, della possibilità o meno di reiterare i contratti a tempo indeterminato nel settore pubblico e in particolare nella scuola. E proprio in questi giorni, di fatto, all'Aran si sta trattando una bozza sostanzialmente di accordo quadro per i contratti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, diciamo, per omologare quella che è la normativa italiana alle direttive europee, secondo quanto si accennava prima. E diciamo, questa tematica è evidente che coinvolge in pieno e in tutto e per tutto la scuola, che come abbiamo cercato di dire più volte ha diciamo la palma dei contratti a tempo indeterminato e della reiterazione di questi contratti per la natura stessa del lavoro che si va a fare a scuola. Ebbene, niente, il ministro della funzione pubblica ha chiarito preventivamente e prima ancora sostanzialmente dell'avvio delle trattative che rispetto a qualunque tipo di ipotesi di stabilizzazione sostanzialmente la scuola resta fuori, quindi sostanzialmente le supplenze potranno e dovranno continuare a essere reiterate anche oltre i 3 anni diciamo in disaccordo rispetto a quanto stabilito dalla stessa normativa europea e dalle sentenze sostanzialmente dei giudici che, come abbiamo visto prima, si adeguano alla normativa europea. E resterà fuori, e secondo questa comunicazione sostanzialmente la scuola resterà fuori perché evidentemente ha delle sue delle specificità, è un settore per cui che va trattato in maniera assolutamente particolare. Questo è evidentemente vero, nel senso che si tratta di distinguere tra supplenza e supplenza, tra contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo indeterminato, nel senso che, come abbiamo detto più volte, nella scuola esistono diversi tipi di contratti a tempo indeterminato. C'è la situazione di chi fa quelle che vengono definite le supplenze brevi, cioè quelle supplenze che vanno su lunghe malattie, su maternità o su assenze di altro genere. E questa è una situazione in cui evidentemente la scuola costituisce un comparto specifico, perché è evidente che c'è la necessità di sostituire l'insegnante che si assenta. Ci sono poi i cosiddetti posti di organico di fatto, c'è chi è più competente di me evidentemente su questo, però sono posti che tendenzialmente arrivano alla fine dell'anno scolastico, ma al 30 giugno, e non sono su cattedre vacanti, cioè dovrebbe esistere un titolare per questo tipo di contratto che è magari in assegnazione provvisoria o comunque che non ricopre quel posto per motivi specifici anche di servizio prestato altrove. Ma è evidente che ci sono anche posti obiettivamente vacanti, e sono quelle supplenze che diventano sempre di meno, a mio modo di vedere anche inspiegabilmente in qualche caso, ma forse su questo si può dedicare una trasmissione tutta a parte. E sono posti con contratti che arrivano al 31 agosto. In questi casi non esiste un titolare. E invece la posizione che è stata presa dal Ministro della Funzione Pubblica, che sottolinea come la scuola sia un comparto specifico in cui c'è necessità di sostituire l'insegnante assente, appiattisce queste 3 posizioni, o queste 2 posizioni se volete, tutte su uno stesso livello, e quindi è evidentemente una posizione tesa ad ignorare sostanzialmente il problema e conseguentemente a non mostrare nessuna apertura relativa alla possibilità di stabilizzazione di insegnanti precari che su posti vacanti, quindi su posti senza titolare, abbiano prestato un servizio per più di 36 mesi, e sono molti, ed è chiaro che a questo punto L'unica possibilità per queste persone di essere stabilizzate è quella di fare ricorso alla magistratura, che, come abbiamo visto, con i giudici del lavoro in qualche caso dà loro ragione, disponendo evidentemente degli indennizi, in qualche altro caso, dove si sfugge alle maglie dell'avvocatura dello Stato che impugna le sentenze, dispone addirittura l'integrazione nel servizio, con le conseguenze che abbiamo visto. Ma a me quello che mi viene da commentare, poi lo riprenderemo anche in finale di trasmissione parlando di altro, è che questo governo non se ne vuole andare, cioè nel senso, nel frattempo ci sono state le elezioni, c'è tutta questa forma di stabilità, io lo so che è previsto dall'ordinamento che questi rimangano in carica, non mi ricordo, 30 giorni, 40 giorni eccetera, però stanno prendendo una serie tale di mole di decisioni, pur di fatto cioè, avendo una carica che sì è di diritto, ma che a tempo ormai molto deciso, pur essendo un governo tecnico, quindi non eletto da nessuno, adesso non è più nemmeno in carica, stanno aspettando il 9 eccetera, però questi stanno proprio cercando di far piazza pulita prima di andarsene. Sì, questo diciamo emerge obiettivamente da tantissime prese di posizione, non ultima quella di cui parleremo più avanti, cioè degli atti di indirizzo politico che il ministro Profumo ha emanato per la scuola nel 2013, in cui stabilisce una serie di linee guida per l'azione sulla scuola e sull'università, e sono in qualche caso appunto linee guida pesanti, e c'è una volontà di prendere posizione e in qualche modo di imprimere una traccia nella scuola veramente impressionante. Non ne abbiamo parlato in passato, ma si è tentato immediatamente prima delle elezioni anche di in qualche modo condizionare quello che era il sistema di valutazione delle scuole con un tentativo appunto di nomina di dirigenti dell'Invalsi e così via. C'è proprio una volontà di, sembra almeno che ci sia una volontà di lasciare esattamente una situazione già segnata per il governo che verrà, se verrà. E tu dicevi un governo tecnico, sì, un governo tecnico che continua ad agire di fatto, a dare linee di indirizzo, essendo stato di fatto, se c'è un risultato, completamente sconfessato dal risultato elettorale. Peraltro, se se ne può vincere qualche cosa, e quindi è tanto più inquietante, perché queste sono cose che io personalmente trovo inquietanti. Sì, anche perché il risultato elettorale, se insomma ma posso permettere così un volo pindarico, sì. A me sembra che se una cosa l'ha sconfessata in maniera molto chiara sono le politiche neoliberiste, europee, eccetera, cioè la gente mi pare che di fatto abbia votato contro questo essenzialmente. E forse più di pancia ha votato proprio contro il governo Monti, se posso dire proprio un mio pensiero personale. E però insomma questo ovviamente non interessa a nessuno, tanto più che sulla scuola noi abbiamo visto che insomma politiche di PD, PDL e governo tecnico sono state tutte in assoluta continuità, qualcuna più becera, ciarlatana e sguaiata, qualcuna più attenta, altre più sobrie, ma la linea guida è stata quella OCSE sostanzialmente, di cui tanto parliamo in questo spazio radiofonico. Sì, a me quello che stupisce è poi che si fa, specialmente appunto il ministro Profumo, Monti e tutta la compagnia contante, fanno questi continui riferimenti all'Europa, quando poi ecco noi vediamo, entrando nello specifico di alcuni temi, che viceversa alcune direttive europee qui nel campo della scuola e dell'istruzione non valgono, no? Quindi è come se si fa ricorso all'Europa secondo anche propri scopi e propri obiettivi. Quindi c'è questo baluardo dell'Unione Europea, che poi è solo quella che loro intendono praticamente, quindi questa dell'OCSE, della BCE, del neoliberismo. Non a caso, sempre per far voli pindarici, la Germania è abbastanza sconvolta anche dei nostri risultati politici, insomma, perché... Sì, non dimentichiamoci. Citiamo l'OCSE, ricordo per chi ci ascolta, sì. Perché le politiche scolastiche, sì. Diciamo, hanno un bacino più largo di quello europeo, e che sono, che è appunto quello dell'OCSE. No, no, niente, era una battuta solo, non dimentichiamoci che quando si è parlato di innalzare l'orario di lavoro a 24 ore si è detto a chiare lettere che dovevamo adeguarci all'orario di lavoro dei professori europei, e cosa falsa, perché gli insegnanti italiani sono quelli che lavorano forse di più, sì, o tra quelli che lavorano di più in Europa, come è stato immediatamente dimostrato, e però non si è parlato degli stipendi degli insegnanti europei, e così per milioni di cose, insomma, il ce lo chiede l'Europa adesso. Adesso è una barzelletta, sì, diciamocelo, lo sappiamo, è una barzelletta. Io manderei una traccia musicale e poi parliamo di ATA appena torniamo in voce. E nel senso, ci sono qui io alla console, quindi ora sentite Loredana per te. Quarantanove 17:50 è il numero di questa radio se volete parlare con noi. Torniamo in voce, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola, e come vi avevamo preannunciato aggiorniamo sulla situazione del personale ATA, cioè del personale non docente della scuola, in particolare di quello delle segreterie. Sì, amministrativi, tecnici, ma anche collaboratori scolastici, infermieri, guardarobieri, appunto nel personale ATA è compresa tutta un'altra grande massa di lavoratori e lavoratrici che continuano però a rimanere in ombra, tant'è che io che poi sono direttamente coinvolta in tutto ciò, farò un breve riassunto delle puntate precedenti, cioè dello stallo in cui versa la condizione non solo degli ATA, ma anche degli inidonei, dei soprannumerari, perché tutto è cominciato da lì. Ne abbiamo già parlato, c'è stato da parte degli inidonei, che io allora voglio fare una premessa, io mi baso su delle piattaforme presentate da alcuni sindacati, perché purtroppo non c'è stato modo di verificare il riscontro, insomma, di mobilitazioni in atto, no? Quindi prendo per buone quello che viene indicato, insomma, in queste piattaforme che vengono sottoscritte appunto da personale ATA e precari e inidonei. Allora, abbiamo già parlato di questo tentativo di deportare, perché è così che la chiamano anche loro, addirittura la chiamano Action T4, parafrasando appunto quella dell'internamento nei campi di concentramento di persone malate, tra virgolette. C'è stato questo tentativo appunto far transitare ben 3.500 docenti considerati inidonei, in quanto appunto per vari motivi, ma poi vedremo in seguito anche specialmente per cause di servizio dovute anche al progressivo aumento dell'età, visto che sono bloccate le pensioni e quindi si tratta di personale sempre più maturo. E questo personale inidoneo di volerlo far transitare nei posti delle segreterie, nelle segreterie scolastiche, posti ricoperti attualmente da personale precario, assistenti amministrativi, ma anche assistenti tecnici, ora anche dei tecnici, perché questo transito forzoso riguarda anche tutti i cosiddetti insegnanti tecnico-professionali di una specifica classe di concorso, che anch'essi dovranno transitare sui posti di assistenza tecnico. E fortunatamente la mobilitazione dei docenti inidonei, iniziata già nel 2011, nell'estate del 2011, con presidi, diffide, denunce e quant'altro, quindi opponendosi a questo forzata transito, ha fatto sì che, nonostante la legge di stabilità, la spending review, ci ricordiamo, sono state bloccate le 24 ore, ma nulla è cambiato per quanto riguardava appunto questo transito degli inidonei sui posti degli applicati di segreteria. Loro hanno bloccato però in qualche modo il decreto attuativo, cioè non c'è stato poi, no, a seguito della 135 del 2012 della spending review, praticamente non è stato messo il decreto attuativo e quindi la situazione è così, per così dire, congelata. Che cosa ha comportato però questo congelamento degli inidonei e degli ITP sui posti appunto di assistente tecnico e di personale amministrativo delle segreterie? Di bloccare, intanto c'è il blocco delle immissioni in ruolo, quindi al momento sì, c'è stato un contingente di 2.000 posti per collaboratore scolastico, ma del tutto irrisorio riguardo alle reali esigenze. E in più poi non si capisce nemmeno perché siano stati coinvolti anche i collaboratori scolastici in tutto questo congelamento di cose, perché non li riguardava, insomma. E comunque questo congelamento ha prodotto a catena una serie di gravi non solo disservizi in termini scolastici, dello svuotamento, del maggior onere di lavoro e quant'altro, ma anche di una ulteriore, se così è possibile, precarizzazione di quel personale che precario già lo era. Praticamente io qui faccio proprio il mio caso, non perché voglio personalizzare le cose, ma sono una delle tante che rientrano in questo contesto. E quest'anno, per quanto riguarda appunto gli assistenti amministrativi, non ci sono state benché per legge, insomma, no, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale amministrativo non ci sono state convocazioni, quindi non si è proceduto a nominare annualmente, cosa che appunto spetta a tutti coloro inseriti in questa graduatoria provinciale permanente ad avere delle nomine annuali, no? Quindi dal 1 settembre al 31 di agosto. E nemmeno fino al 30 giugno, nonostante appunto i posti vacanti qui c'erano e come, ma sono stati per l'appunto congelati perché si attende che si sblocchi la situazione degli inidonei. E qui stiamo parlando di mesi, anni, tutto l'anno. Dopodiché, appunto, che cosa le direttive del MIUR sono state quelle di nominare fino all'avente diritto. Nominare fino all'avente diritto, queste nomine sono anche un assurdo giuridico, perché in pratica ogni contratto, scusate un attimo, sono nomine che quindi non c'è una data di scadenza nel contratto e che procurerà anche successivamente, anche ora con l'aggiornamento delle graduatorie, un grande marasma. Comunque, andando per gradi, non ci sono state nomine, si è proceduto da parte dei dirigenti scolastici alla nomina del personale per supplenze brevi, appunto, come dicevo, fino alla nomina dell'avente diritto. E lì io mi permetto, insomma, di, anche laddove non ci sia stata malafede, ma sicuramente nel caos che regna ora nelle segreterie non si è proceduto, nessuno può verificare appunto come siano state convocate anche le persone che sono state convocate per coprire delle supplenze. E perché anche lì la procedura online, che qui si dice, no? si continua a parlare di nuove tecnologie, di tutte le procedure online e quant'altro, poi queste procedure online, appunto, per quello che riguarda anche un minimo di difesa, di trasparenza e di accesso ai dati, non c'è. Quindi ogni persona dovrebbe andare a consultare direttamente le 30 scuole, girare per le 30 scuole per verificare se si è proceduto regolarmente alla convocazione da graduatoria d'istituto. La graduatoria d'istituto, però, appunto, venendo meno la chiamata annuale da parte degli uffici provinciali, attingendo alla graduatoria provinciale, ha demandato ai singoli dirigenti scolastici la nomina dei supplenti, quindi scorrendo le graduatorie di prima, seconda e terza fascia. Quindi praticamente c'è adesso il paradosso che magari una persona, per carità, appunto, senza, anche qui, ci tengo a precisare che tutto questo caso non è provocato dai lavoratori, quindi il mettersi gli uni contro gli altri non ha ragion d'essere, quindi non è che me la vado a prendere col supplente che magari in graduatoria sta dopo di me perché ora sta lavorando, perché è precario tanto quanto me, no? Però può essere capitato che appunto ci siano persone addirittura di terza fascia che ora lavorano con supplenze, e viceversa quelli inseriti nelle famose graduatorie di esaurimento provinciale non lavorano, sono disoccupate, insomma. Dopodiché, tornando appunto agli inidonei, agli assistenti tecnici, invece fortunatamente, almeno sembra da queste piattaforme che leggo, sembra che invece di spaccare ulteriormente i lavoratori e le lavoratrici, appunto mettendo gli uni contro gli altri, si siano uniti per presentare una piattaforma comune in cui rivendicano tutta una serie di punti, tra cui sembra che abbiano trovato anche le risorse, che sembra non ci siano, questi famosi 100 milioni per cui gli inidonei potrebbero tranquillamente continuare a rimanere nei posti che occupano. Ricordiamo che gli inidonei lavorano nelle biblioteche, infatti ho letto un comunicato condiviso da tutti gli applicati nelle biblioteche. Sì, finora sostanzialmente gli inidonei erano insegnanti in servizio che non andavano in classe, che quindi svolgevano mansioni di sostegno all'insegnamento. Esatto. Nel POF, appunto, esatto. E nei laboratori e quant'altro. Idem per quanto riguarda gli assistenti, gli ITP, cioè sono comunque insegnanti che, sì, pur facendo parte di una classe di concorso anomala che non esisterà più, insomma, no? però idem svolgono un supporto anche sempre con queste nuove tecnologie, le reti, i server e quant'altro. Poi nei vari laboratori svolgono un lavoro di ausilio, che si autoformano, per giunta poi c'è una formazione demandata ai singoli individui, insomma, non è che ci si... E non parliamo di masse, cioè, perché un conto è la lesione a 3.500 lavoratori e lavoratrici, un conto è immaginare un insegnante in più ogni 6-7 scuole, perché si tratta di 3.500 persone in tutta Italia. In tutta Italia, e quindi, insomma, si tratta che in ogni 7-8 scuole, credo più o meno, c'è una persona che, perché ne donne andare in classe, sta in una biblioteca o svolge altre mansioni sempre di sostegno all'insegnamento. Quindi non è una massa di lavoratori e lavoratrici che non fanno niente, che occupano posti così. Che comunque lavorano e che hanno sviluppato specifiche competenze e professionalità in settori specifici. Cioè, una biblioteca in una scuola è una cosa importante, non è una cosa che tu dici vabbè, adesso sposto il lavoratore perché qui non rende. È un lavoro che è funzionale e estremamente rispetto all'attività di insegnamento e rispetto allo sviluppo culturale della persona. Dopodiché, ora, tornando appunto anche a questo caos procurato dalla mancanza di convocazione da parte degli uffici provinciali, attingendo alla graduatoria permanente, alla graduatoria ad esaurimento, come vogliamo chiamarla, insomma, a esaurimento nel senso che appunto tutti ambivano, poi piano piano, poi non so se non abbiamo mai approfondito anche queste questioncine burocratiche, come si conteggiano, no, i punti, che, cioè qui si lavora per punti appunto, non solo per lo stipendio, perché ultimamente ho sentito persone dice vabbè, ma intanto faccio punteggio, no, come se uno andasse a lavorare per i punti, no? Però di fatto un po' mandare a fare la spesa per i come punti, come i punti Miralanza, sì. Sì, appunto, i punti della COP. Quindi che cosa è successo? Che ora tutto questo personale, per giunta adesso, stanno facendo uscire le graduatorie di aggiornamento. Le graduatorie di aggiornamento annuali, no? Come si faceva, in cui uno aggiorna appunto il proprio profilo, sia per servizio che per titoli aggiuntivi. Allora, intanto non si capisce, voglio fare un passo indietro. La nomina sull'avente diritto su supplenza breve, vorrei che fosse chiaro che rispetto a una supplenza annuale, questo credo vale per docenti e tutto il personale della scuola, significa ancora non avere diritto a dei permessi retribuiti, avere al 50% la malattia, quindi quindi ci sono degli, non solo in termini di punteggio, non c'è un riconoscimento, non solo in termini economici, perché anche una supplenza breve significa appunto, no, minore entrate, sia in TFR, scatti, eccetera, eccetera, ma anche non aver riconosciuti appieno una serie di diritti, ormai è una parola da mettere tra virgolette, che vengono invece, sarebbero stati dovuti, no? Quindi, allora, ora oltretutto fanno uscire le graduatorie di aggiornamento. Allora, io personalmente non capisco che aggiornamento potrei fare, visto che in un anno scolastico, io faccio il caso mio, ma è quello di tanti altri, sono sicura, che tipo di punteggio vado ad aggiornare, visto che avrò lavorato, se no, 5 mesi su 12, se dice bene, eh? Tant'è che io credo che lo farò, da parte dell'ANIEF già una scesa in campo, per cui dirà di fare ricorso e di aggiornare il punteggio. Io invito tutti a farlo, tutti gli ATA precari, tutti quanti, di fare veramente un aggiornamento mettendo il punteggio, perché quest'anno non c'è stata nemmeno la salva precari. Il decreto salva precari era una sorta di, lista aggiuntiva che, poiché noi sappiamo bene che già dalla Gelmini in poi sono stati tagliati 45.000 posti, quindi c'erano già stati dei tagli e già anche da queste graduatorie permanenti si lavorava meno, non erano garantite. Sì, 45.000 per gli ATA, poi c'erano stati 80.000 docenti. ATA, io dicevo, mi riferivo agli ATA. No, tante volte magari chi ci ascolta pensa nella ragione, scuola 45.000. Meglio, no, puntualizziamo sempre. Quindi il decreto salva precari era un modo per far rientrare in pratica dalla finestra quello che era uscito dalla porta, cioè chi non rientrava, non veniva convocato per una supplenza annuale o fino al 30 giugno, poteva, inserendosi in questa salva precari, per distretti, perché erano fatti per distretti e non per istituzioni scolastiche, comunque avere magari la possibilità di lavorare muovendosi su tutto il distretto di Roma e provincia, ma comunque quest'anno neanche il salva precari. Io non lo so, quello che mi piacerebbe vedere è una mobilitazione da parte, appunto, qui, ecco, un bel comparto enorme, inidonei, sovrannumerari, precari, perché poi, appunto, se tutto ciò avverrà, se non verrà fermata questa macchina infernale che prevede, appunto, questo transito, è qui accaduta anche, andranno a perdersi posti di lavoro. Per giunta, qui, appunto, qui non è una questione contabile. Qui si tratta sempre della vita delle persone, qui sono persone che vedono sfumare, se mai ci hanno creduto, ma un minimo, la possibilità di averci un reddito garantito, che poi è il minimo indispensabile, insomma, no? Che si possa pretendere. Dopodiché però non vedo mobilitazione in atto, qui si demanda sempre ai sindacati di turno, che io personalmente, comunque, avendo fatto i ricorsi vari anche ai sindacati, poi si perdono lungo la via, però qualche riconoscimento c'è stato, però quantomeno, se non c'è una mobilitazione di lotte da portare avanti, che almeno si proceda a fare ricorsi e controricorsi, insomma, contro questo stato di cose. Mi piacerebbe chiamasse qualche docente inidoneo o qualche sovrannumerario o qualche precario ATA, insomma, per sentire da viva voce, insomma, come si sta vivendo poi tutta questa situazione. Ricordiamo ancora il numero, è lo 06 19 17 06 49 17 50 e come dire, vi ricordiamo che questa è l'ora di buco, tra lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, ma vi ricordiamo anche che questo è un martedì particolare nel palinsesto di Radio Onda Rossa, perché oggi non va in onda il martedì autogestito da femministe e lesbiche, così come va in onda ogni martedì da 18 anni, ma diciamo che niente di male, anzi una bella cosa. Venerdì prossimo, che è l'8 marzo, ci sarà appunto una 24 ore radiofonica autogestita da femministe e lesbiche, quindi l'appuntamento è a venerdì. Noi ce la prendiamo un pochino più larga del solito, e dopo di noi, appunto, niente da vendere, ma adesso vorremmo, prima di chiudere, insomma, trattare un ultimo argomento, quindi vi facciamo ascoltare ancora una traccia musicale e poi torniamo in voce. C'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libre. Tout va trop vite, là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères. La haine est trop vive et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Où ça prit la conjoncture, ça vénère l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté. Ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades, combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimeraient nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au Karcher. Créature d'argile corrompue pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre. Camarades, ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain, ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain. Ils sont effrayés, ils aimeraient t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, faisant sauter les murs de ces prisons cérébrales. Camarades, liberté, ils ont peur de la liberté, cœur te porte et la vie te donnera raison. Le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas. La vie dépend de ton regard. Même si pour la paix se monter en retard, nous nourris de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard. Même si pour la paix se monter en retard, nous nourris de cette envie de tirer dans le tas. Mais la beauté de la vie dépend de ton regard. Camarade, méfie-toi, le temps voudrait te corrompre. Car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens tous égaux devant Dieu. Camarade, va où ton cœur te porte, camarade. La vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toute celle établie. Alors, va où ton cœur te porte, camarade. E vi avevamo preannunciato che il ministro Profumo, ancor ministro fino a che non verrà, se lo faranno mai, fatto un nuovo governo in questi ultimi proprio istanti del suo mandato, emette l'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2013. 20 cartelle quasi incomprensibili, questo si può partire di lì. Un linguaggio che ormai dire burocratichese anglofilo è come dire sì, non è sufficiente, cioè scrivono comunque veramente delle cose che non si capisce di che parlano, tanto è fumoso col linguaggio che vuole essere moderno, europeo e quindi usa continuamente parole e sigle inglesi. Pidgin. una cosa veramente incomprensibile. Detto questo, noi andiamo a vedere la parte che riguarda la scuola. Partiamo quindi, questo non è diviso in paragrafi questo documento, bensì in priorità. Partiamo dalla priorità numero 5, che è la scuola. Priorità politica 5. Certo, prego. La priorità politica, cioè la prima priorità che rispetto alla scuola viene in mente al ministro Profumo, quale poteva essere lo stato in cui versano gli edifici scolastici, l'assunzione dei precari, lo sviluppo al limite delle competenze, visto che così gli piace parlare degli studenti che a stento leggono e scrivono, no. La prima priorità è lo sviluppo delle azioni di valutazione della performance del sistema scolastico, con particolare riferimento agli apprendimenti e alle competenze degli alunni. Di fatto il primo punto in assoluto è quello di completare l'attuazione del sistema nazionale di valutazione, che è una fissa assoluta del ministro Profumo in particolare, ma comunque di chi si è occupato di scuola in questi ultimi tempi, perché ne abbiamo accennato altre volte e ci siamo riproposti e ci riproponiamo di svilupparlo anche la prossima volta. Avevamo detto oggi, ma c'era un'assenza illustre da questi microfoni che salutiamo. E è quello appunto di sviluppare, diciamo, modelli di valutazione delle performance del sistema scolastico. Questi modelli si succedono attraverso l'Invalsi, l'Indire, sistemi vari, attraverso nuovi progetti di valutazione e autovalutazione, il Vales, il nuovissimo Talis e così via. Però questo è evidentemente in piena coerenza con quello che è l'atto di indirizzo del ministro, che al primo punto mette proprio l'esigenza di completare l'attuazione del sistema nazionale di valutazione, e ciò sì, al fine evidentemente di fornire alle istituzioni gli strumenti per definire e attuare piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa, ma anche in rapporto alla necessità di sviluppare la cultura della trasparenza, della rendicontazione sociale e del confronto dei risultati in ambito nazionale, europeo e internazionale. Se vi chiedete cosa significa, noi non lo sappiamo. Proprio non lo sappiamo. Se ci vuole telefonare Profumo e dirci cos'è la cultura della trasparenza che il sistema di valutazione implementerebbe e cos'è la rendicontazione sociale, noi siamo qua, pendiamo dalle sue labbra. Sì, anche perché questo, diciamo, potrebbe in qualche modo ottimizzare la nostra azione di insegnanti, capire l'esigenza di rendicontazione sociale del nostro lavoro, ma francamente noi ci confrontiamo tutti i giorni con problemi di altra natura. Sì, diciamo quello dell'interpretazione del linguaggio del ministro non credo stia nel contratto, quindi insomma noi non ci rifiutiamo di star qui a durar fatica a cercare di capire quello che dice. Comunque, andando avanti, dice che ovviamente poi arriva, cosa deve, si deve fare sempre nella prima priorità che riguarda la scuola? Si deve adeguare la durata dei percorsi di istruzione agli standard europei. Aritangate, ce lo chiede l'Europa! Ce lo chiede l'Europa, e questa volta è l'Europa che ci chiede di tagliare un anno di scuola, perché dice tutti gli altri fanno così. Sì, dice tutti gli altri fanno così, tutti gli altri fanno così, ma in realtà sembra che tutti gli altri non facciano così, cioè è evidente che ci sono delle nazioni europee in cui gli studenti escono dalla scuola un anno prima rispetto ai nostri, a 18 anni, ma è altrettanto evidente che non per tutti è così. Non è così per esempio in Danimarca, in Svezia, in Finlandia, ma anche in altri paesi, in Polonia, nella Repubblica Ceca, nella Germania stessa, gli studenti che intendono frequentare l'università e che quindi frequentano quello che loro chiamano il ginnasio escono dalla scuola a 19 anni e diciamo sono pochi i paesi in cui si comincia un anno prima, in cui la scuola si comincia a 5 anni, per cui c'è sempre questa esigenza di far riferimento all'Europa a vuoto, in una maniera inconsistente, anche proprio mentendo, cioè sì, dicendo sì. Gli altri vanno meno a scuola quindi anche noi non è vero, e gli altri insegnanti lavorano di più quindi anche noi non è vero, e così via. È come se non esistessero gli strumenti per verificare piuttosto rapidamente, insomma, se le affermazioni sono reali o se sono veramente frutto di malafede, come in moltissimi casi. Comunque c'è, è ribadita e reiterata da più parti, perché diciamo non è solo il ministro Profumo che sostiene questa opportunità, l'esigenza di abbattere la durata del percorso di studi in Italia e di portarlo, quindi di tagliarlo sostanzialmente di un anno. Non si capisce tagliando dove, perché un'altra caratteristica di questo atto di indirizzo è che oltre a essere vuoto è generico in una maniera esasperante, per cui la cosa importante è tagliare un anno di scuola. Ma dove? Non importante. Perché non importa né dove, non importa come, quello che importa è l'obiettivo, cioè spendere meno per la scuola, perché un anno meno vuol dire ovviamente un risparmio per le casse dello Stato, questo è quello che si vuole, è evidente. Qualche volta ci viene detto che questi risparmi verranno poi reinvestiti sulla scuola, in questo caso non ci viene detto neanche questo, ci viene detto semplicemente che in armonia con gli standard europei si deve tagliare un anno di scuola, questo è tra le priorità del 2013 e quindi l'urgenza è particolarmente evidente agli occhi del ministro. Individuo un investimento, per esempio, non so quale delle priorità sia, la riorganizzazione e l'ammodernamento del ministero, del MIUR praticamente. Lui dice che per completare l'organico del MIUR occorre selezionare nuovi profili professionali, sia a livello dirigenziale, quindi c'è bisogno di nuovi dirigenti ancor più, che di altre aree funzionali, statistici, informatici, ingegneri, eccetera. Ecco, questi saranno i lavoratori, gli esperti che andranno a lavorare. Gli forse esperti Cellini, che non hanno ancora trovato posto, saranno questi che dobbiamo prendere? Chissà. Sì, devo dire che si sente proprio l'esigenza nella scuola di nuovi statistici, sì, informatici e ingegneri, esatto, gestionali, è proprio quello che ci manca. A fronte dei tagli del ministro Gelmini, l'esigenza di assumere ingegneri gestionali è particolarmente pressante nei livelli dirigenziali del ministero soprattutto. Ma secondo me si sono andati a perdere dei posti di lavoro in Lombardia con gli ultimi chiari di luna, e c'è qualcuno che dalla Lombardia deve scendere nel Lazio. È sicuramente questo. Io comunque ci sono alcuni concetti che appunto mi piacerebbe capire, perché poi ricorre spesso qui la parola intelligente. Ma dice, che cosa vorrà dire intelligente? Ossia che tutto ciò che non viene fatto in questi termini non è intelligente? Qui si parla, e non so che cosa voglia dire, di economia intelligente, sostenibile e inclusiva. Si parla di una specializzazione intelligente dei territori riguardo alla ricerca. Si parla della fabbrica intelligente anche. Non so, ora, questa facoltà se è data solo ad alcuni, e quindi a chi scrive questi atti di indirizzo, o ai dirigenti, appunto, o che cosa si intende? Beh, andando a vedere, perché lui si rifà a questo fantomatico programma Europa 2020, strategie per l'Europa 2020, poi chi ha voglia se lo può andare a cercare su internet, appunto lì quando si parla di intelligenza si parla di prestazioni. E quindi quando poi andremo poi a occuparci un po' del linguaggio adottato, migliorare la crescita intelligente significa migliorare le prestazioni, quali? Cioè che si lavora di più, per esempio, no? Un nuovo accordo di produttività, sì. Non so. Comunque, andando avanti, la priorità 6 riguarda sempre la scuola, sviluppo delle azioni di orientamento scolastico e professionale, di educazione alla cittadinanza e alla legalità, di contrasto alla dispersione scolastica. Allora, innanzitutto a me mi pare si metta insieme un cesto di verdure, sì, completamente difforme l'uno dall'altro, cioè che c'entra l'educazione alla legalità con la dispersione scolastica? Ma sentite cosa c'entra. Allora, secondo il ministro o chi per lui, non so se scrive lui in questo modo o qualcun altro, il sostegno alle aree scolastiche più compromesse deve essere volto in principale a ridurre l'insuccesso formativo, cioè il fatto che si boccia, la dispersione e l'abbandono scolastico, a prevenire il disagio giovanile e i fenomeni di tossicodipendenza, a favorire l'integrazione degli alunni disabili e di recente immigrazione. Ora, cosa c'entra la tossicodipendenza in tutto ciò? Io glielo vorrei chiedere a Profumo. Il cesto di verdure è completo, però mi sembra utile anche, diciamo, passare al paragrafo immediatamente successivo e capire come questo si otterrebbe, cioè attraverso continuità, sviluppo ed estensione dell'azione prototipale di contrasto alla dispersione F3 basata sul partenariato tra scuola, soggetti pubblici e no profit e non profit scritto del territorio. E l'obiettivo è l'abbattimento del tasso degli early school leavers fino al 10%. Se capite qualcosa, per pietà, telefonateci. Allora, la dispersione scolastica è una cosa gravissima, gravissima nel senso che dispersione scolastica cosa significa? Significa che bambini e bambine, ragazzi e ragazze, abbandonano la scuola prima di quanto devono o comunque con bassi livelli, diciamo, con pochi anni di scuola compiuti, e non perché hanno 18 anni, vanno a lavorare eccetera, ma perché si disperdono, cioè smettono di studiare, escono da un percorso formativo. In Italia siamo il terzo paese in Europa per maggior numero di studenti, per l'alto numero di studenti dispersi, per usare questo linguaggio. Quindi un problema molto serio. Ecco, quello che ha letto prima la compagna è la soluzione. Ora ci dovrebbe essere una telefonata, cerchiamo di prenderla un attimo solo. Eccoci. No, c'è qualcosa che non è andato a buon fine. Eccoci qua, pronto, ci senti? Sì, pronto? Pronto, ciao, miracolo della tecnica, ciao. Caramba, che sorpresa, il redattore. Non ci ha sentito, è sparito. Pronto? Sì, pronto, eccoci, ciao. Puoi parlare. Niente, io sono l'Europa. Sono un po' incazzata che tutti parlino a mio nome. Nel senso che questa Europa dovrebbe querelare chiunque si esprima i propri pensieri e le proprie linee politiche in nome dell'Europa, perché il nome e cognome di chi dice che bisogna tagliare un anno di scuola alle superiori, che non bisogna bocciare per motivi economici, eccetera, è l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico. E quindi, non è l'Europa, è un ente che si occupa dell'economia, che dice che l'economia mondiale funziona abbastanza, bisogna un pochino aggiustarla, e che detta anche le linee dell'istruzione nei vari paesi. Quindi io direi che l'Europa lasciamola stare. Sì, sì, noi la lasceremo stare più che volentieri, insomma, soprattutto sì, quando si parla di politiche scolastiche. Uh-huh. E niente, poi dopo vi saluto e ci risentiamo. Ti aspettiamo. Ciao. E niente, continuando appunto su questo discorso e chiarendo appunto che l'Europa c'entra poco, andiamo avanti sempre a vedere questa priorità sulla dispersione. Sì, io non vorrei far innervosire l'Europa ulteriormente, però qui scorrevo il documento del ministro e questo abbattimento del tasso degli early school leavers di cui parlavamo in precedenza è un obiettivo che è tra le priorità dell'Europa di EU 2020, e voi credete che a noi importi qualche cosa dell'abbandono scolastico di studenti che in aree depresse magari lasciano la scuola a 10, 11, 12 anni? No, si rammenta che il raggiungimento di questo obiettivo è tra le condizioni per l'accesso a fondi strutturali europei, quindi quello che ci importa di fatto a noi è di prendere i soldi dei fondi strutturali europei. Sì, anche perché il MOF ha tagliato tutto quello che erano le scuole a rischio, l'incentivo, ha tagliato tutto, proprio che erano quelle per la dispersione scolastica. Ma al Ministero gliene importa così poco della dispersione scolastica che gli ultimi dati su quante dispersione scolastica c'è stata in Italia, su cui il MIUR ha messo la firma, sono del 2004-2005, quindi ormai negli ultimi 8 anni nemmeno li conta. Non ci sono più rilevamenti negli ultimi 8 anni, quindi non sappiamo, mi stai dicendo, quanti studenti effettivamente abbandonano precocemente. Ci sono alcuni calcoli di sindacati, ma quelli ufficiali del Ministero non ci sono. Sarà difficile tagliare il 10% di un totale che non si sa qual è o che è aggiornato a 10 anni fa. È come quando tu compri un detersivo e sotto c'è scritto il 20% in più, ma nessuno ti dice in più di che. È esattamente uguale. E sono logiche di mercato anche queste, insomma. Sì, e andando avanti con questa dispersione scolastica, dice, ma questa dispersione scolastica di cui non gli importa assolutamente nulla, ma che fanno finta che il Ministero sia molto interessato, ma come la vogliono togliere? Dice, la vogliono togliere con dei modi assurdi, insomma, agevolando una relazione tra università, associazioni professionali e centri di ricerca, sistematizzando le conoscenze e le competenze. Non si sa che vuol dire, non si sa. No, un processo di sistematizzazione delle conoscenze e delle competenze è veramente un obiettivo molto alto, assolutamente ambizioso, sistemando il rapporto a che, voglio dire, è un oggetto della filosofia del pensiero più che altro. Tornando più in basso, cioè scendendo sulla terra, vogliono attivare percorsi formativi di educazione alla cittadinanza e alla legalità. Di nuovo, cioè vogliono dare impulso alle azioni già in atto in materia di educazione alla salute, di educazione alla legalità in tutte le sue espressioni, di contrasto alle discriminazioni. Cosa c'entri la legalità alle discriminazioni? Sì, ci possano entrare, ma insomma mi sembra un po' confuso come discorso. Nella scuola primaria e poi bisogna anche incentivare l'alfabetizzazione motoria. Nella scuola primaria. In tutto questo, dice, il Ministero rivendica il fatto che il tema della opportunità sta già coperto, secondo loro. È già coperto perché hanno aperto un sito internet, pensate, il MIUR ha aperto www.noisiamopari.it nel 2013, l'ha sconfitto il sessismo, il MIUR ha aperto un sito. E il ministero si vanta a tal punto di questo tipo di cosa che, prima di tutto, rispetto al paragrafo dell'attuazione dell'educazione alla legalità, il sito occupa il vanto, diciamo, rispetto al sito occupa più di metà del paragrafo. Ma tra parentesi, a onor del vero, tra parentesi, si vanta del fatto che il sito noisiamopari.it, leggo testualmente, ha registrato 600 accessi dal 19 novembre, data di apertura. A me questo sembra sfiorare. Cioè, veramente... 600 accessi è zero, cioè sto sito è morto, non c'è. Mondialisation invisible en la visita. Esta ley es también, en su concepción, una toma de posición, es decir, una definición. Quand on détruit, il ne faudrait pas détruire et ne pas construire là, tu ne connais pas. Mais la vérité, c'est regarde une seconde, quand est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça avance? Ça avance quand on est ensemble. Cette jeunesse soit une jeunesse. Ecco, insomma, dicevamo che il sessismo è sconfitto dal ministero, quindi questo dicono l'abbiamo già fatto sostanzialmente. Abbiamo aperto il sito a posto così. A posto, sì, e poi, è finito. Scusa, a margine anche per la dispersione scolastica, anche questo punto mi oscuro, però della serie facciamoci entrare tutti, ci sono anche gli stranieri ovviamente, no? E quindi c'è questa... nell'ottica appunto sempre delle competenze di base e di cittadinanza, con particolare attenzione alle peculiarità proprie dell'istruzione per gli adulti stranieri. Non si sa. Che voglia dire. Cercando di andare verso conclusione, possiamo vedere appunto che comunque si vuole potenziare l'istruzione tecnico-professionale. Questa istruzione tecnico-professionale la vogliamo potenziare aumentando percorsi di alternanza lavoro, di alternanza studio-lavoro, cioè fare lavorare gli studenti gratis d'estate nelle piccole ditte, eccetera, a casa di tuo cugino, eccetera, questo già succede, e a sostegno dell'occupazione dei giovani, colmando progressivamente il mismatch ancora esistente tra domanda e offerta di lavoro per le professioni tecniche. Ora, al di là della farsa di tutto questo, però il pensiero sotteso a questa concezione è che il mismatch tra domanda e offerta del lavoro è una responsabilità della scuola. Cioè, certo, è colpa nostra, sostanzialmente, se manca il lavoro. Sì, questo vuol questo dire. Si evince, mi sembra, piuttosto chiaramente. E questa è un'altra perla del nostro ministro. Poi c'è una priorità politica numero 8. Direi ammodernamento del si intitola così umilmente ammodernamento dell'intero sistema scolastico. Ora scusami, ma il primo punto dell'ammodernamento dell'intero sistema scolastico è il rilancio e lo sviluppo dell'autonomia delle scuole attraverso modelli organizzativi innovativi, guarda caso. Certo, innovazione, noi sappiamo che insieme a performance sono le due bandierine del neoliberismo che spargiamo qua e là, facendo finta di essere, insomma, gente che ci capisce parecchio, e sostanzialmente si vuole far fuori i decreti delegati, questo è, cioè quelle forme di partecipazione, sì, diciamo democratica. E potenziare, a questo punto è un fronte compatto rispetto a chiunque, diciamo, si occupi di scuola, potenziare ancora una volta e ulteriormente l'autonomia del sistema scolastico per rendere le scuole definitivamente e completamente enti autonomi, in piena coerenza con la riforma Prea, in buona sostanza, perché dietro a questo io nella fumosità delle espressioni però leggo questo. Poi insomma bisogna ovviamente promuovere l'innovazione digitale, questo non ne dubitavamo visto che non si parla d'altro, e poi favorire la mobilità degli studenti per estendere la possibilità di studio e lavoro anche all'estero, e questo, come dire, ce l'auguriamo tutti in qualche modo. Per sì, peccato lo stavano per tagliare anche l'Erasmus, anche questo. Anche questo ovviamente, però dice un sottopunto della priorità 9, dice promuovere interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Ah, dice, ci siamo arrivati. Quanto non si dedica a questo? Palestra. Una riga e mezzo. Dice, mancano gli edifici scolastici che mancano dei prescritti requisiti minimi secondo nuovi standard energetici e interventi straordinari. Io non so quale mondo conosca il ministro Profumo. Nel mondo della mia scuola in palestra piove. Ora non so se questo può essere ricondotto a un problema di standard energetico, però mi sembra difficile tutto sommato. Sì, e quando piove forte la mattina si entra una mezz'oretta dopo, perché nel frattempo si è allagato il piano terra sostanzialmente. Questo... Sì, si fa diciamo educazione fisica anche con difficoltà perché piove in palestra anche lì e così via dicendo. Comunque, ecco, l'ultimo punto poi è promuovere la costruzione di nuovi edifici scolastici. A me questo mi ha veramente basito, cioè si vuole costruire scuole nuove? Si vuole costruire scuole nuove e nuovi edifici scolastici. Non so dire esattamente quale sia l'obiettivo, perché l'ottica deve essere completamente rinnovata nella costruzione. Ovviamente. Di edifici scolastici. Marziani li vorranno costruire, ma al fine sostanzialmente di rendere le scuole, anche a livello strutturale, un vero laboratorio interattivo per la partecipazione alla società della comunicazione. Punto, finisce il capitolo sulla scuola. Ora, la cosa brutta è che uno rischia, cioè qui in questo momento non è che si può, cioè nel senso uno avrebbe da dire vabbè, vaffanculo e basta, non si può, perché poi c'è sei grillina, no, non sono grillina, però nel senso, che altro si può dire a questa gente, a questo qui, ma come parli, cioè no, ma come parli, ma anche non ti vergogni, perché questo è un documento pieno di niente dall'inizio alla fine, e dove la parola che più ricorre, secondo me, non è performance, non è obiettivi, ma è modelli organizzativi, perché la modellistica economica questa gente ce l'ha nel cervello e non riesce a parlare altro se non quel linguaggio. Ah, ci siamo dimenticati, ecco, che qualcosina trapela di quelli che sono i veri obiettivi, poi, perché qui fuoriescono tra le righe, no, i nuovi test, anche diagnostici, per quanto riguarda le borse di studio, il merito, ecco, oltretutto si fa un gran parlare della meritocrazia, anche qui, tant'è che si vuole istituire una fondazione per il merito. Sì, quello è un punto che riguarda l'università, che mi ricordo mi aveva particolarmente inquietato, perché mi sembra che si parli del diritto allo studio e dell'erogazione di borse di studio subordinata al fatto che ci si sottoponga a test diagnostici, eventualmente anche in lingua inglese, per valutare le attitudini. Quindi sostanzialmente, se tu fai la facoltà che ti dico io attraverso il test diagnostico, ti do la borsa di studio, se no ciccia, questo è il discorso. E ovviamente questi premi e queste borse di studio verranno risorse sia pubbliche che private. Una parola sola rispetto al sistema universitario e rispetto a quello che può venire potenziato o non potenziato. Nel documento si parla per esempio del programma Horizon, che dà accesso a finanziamenti anche consistenti a livello europeo e che è, diciamo, piuttosto ambito. Dai finanziamenti del programma Horizon sono completamente escluse le facoltà umanistiche, questo per dire quale destino potranno avere un certo tipo di studi e quale destino potrà avere la parità di accesso alla ricerca per tutti quanti i settori disciplinari, diciamo così. Detto questo, io penso che ci potremmo anche avviare verso la fine, insomma, a chi volesse trovare un lavoro faccia come dire ingegneria sociale e basta, non si può fare altro, cioè bisogna diventare tutti esperti e esperte di risorse umane, cioè di licenziamenti. Questo è l'unico lavoro che il ministero prospetta, e questo in Italia si può fare solo colui che licenzia, il tagliatore di teste. E dall'inizio alla fine mi pare che questa trasmissione sia valsa a dimostrare questo, ecco. E comunque io invece il mio consiglio è non fate nemmeno quello, perché io credo che ce ne sia già schiere di sciellini che devono venire dalla Lombardia a prendere quei posti, quindi è inutile. Qualora qualcuno volesse avere chiarimenti dal ministro Profumo, comunque ricordo che domani sarà tra le 2:30 e le 4:30 a Viale Trastevere, perché ci dovrà illuminare con nuove linee di indirizzo riguardanti i cicli dell'istruzione di prima, della scuola di primo e di secondo grado. Quindi le indicazioni nazionali, cioè diciamo le indicazioni non sono più programmi, sono delle cosette che ci dicono quello che si dovrebbe fare a scuola, della scuola primaria, sono online, sono del novembre scorso e sono uno dei testi più esilaranti che io abbia letto nell'ultimo anno. Mi viene da dire gustatevele. Detto questo, noi adesso che sono belle 17:31 vi salutiamo con ben 30 minuti rubacchiati qua e là. Ma li abbiamo rubati, insomma, come sapete, in un martedì particolare, perché oggi non va in onda il martedì autogestito da femministe e lesbiche, perché vi dà appuntamento a venerdì prossimo 8 marzo con 24 ore di diretta radiofonica. Dopo di noi invece andrà in onda Niente da vendere e poi il GR alle 19:30 e poi insomma la normale programmazione di Radio Onda Rossa del martedì. Questo spazio radiofonico vi dà appuntamento a martedì prossimo alle ore 16. Cara maestra, un